Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, giovedì 25 luglio 2013, 106esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La voce che state ascoltando è quella di Camilla Lattanzi in rappresentanza del resto della redazione. Avendo tante cose da dire e poco tempo, senza indugio vi vado a presentare il primo servizio di oggi. Io non riesco a parlare dell'associazione Carrellini Disabili di Treviso senza commuovermi di brutto, quindi i convenevoli saranno brevi. Nel loro sito internet, che vi consiglio di non perdere, lo slogan è «La mia seconda possibilità». E lo scopo di questa associazione è infatti di rimettere in cammino cani, ma anche gatti, capre, conigli e persino nutrie che per incidenti o malattia o vecchiaia non riescono più a reggersi in piedi. Se digiterete carrellinidisabili.it vedrete una quantità di foto, di filmini e di storie che vi faranno ridere e piangere. E siccome per me è più la seconda che ho detto, il resto è meglio che ve lo racconti Alessandro Ortolan, il costruttore di Carrellini. Siamo due ragazzi e abbiamo fondato un'associazione che si occupa appunto di fare dei carrellini per gli animali disabili. Molte volte per caso si realizzano dei sogni e sinceramente quello che è capitato a me è sicuramente la realizzazione di un sogno. È un sogno che avevo sempre avuto da piccolo e quindi quello di comunque avere a che fare in qualche modo con gli animali. E avevo studiato per questo, poi quando è stato il momento di proseguire non ho potuto proseguire per vari motivi. Questa combinazione ha fatto sì che ci sia stata una serie di elementi che mi hanno portato ad entrare dalla porta di servizio nel mondo in cui avevo sempre sognato di arrivare. Fino a qualche tempo fa, a parte dei casi piuttosto rari, la soluzione per un cane paralizzato, per un cane incidentato, per un cane vecchio che non poteva più camminare era purtroppo l'eutanasia. I primi carrellini che io ho visto sono addirittura del 1937 in America, però fino a che non abbiamo fatto noi l'associazione non erano alla portata di tutti, insomma, e hanno dei costi abbastanza elevati. Abbiamo creato questa fascia di mercato costruendo dei carrellini che sono molto migliorati per arrivare adesso ad avere un prodotto di ottimo livello e siamo soprattutto riusciti a contenerne i prezzi o addirittura in qualche caso, grazie alle donazioni, grazie all'aiuto di tante persone, siamo riusciti a darli a dei prezzi praticamente simbolici a quelli che tra gli sfortunati sono ancora più sfortunati perché oltre magari ad essere paralizzati non hanno nemmeno un padrone e sono costretti in una gabbia di un canile o in uno stallo temporaneo, insomma, ecco. L'anno scorso per le associazioni sono stati fatti 65 carrellini. Il nostro simbolo, che è quel cane che c'è sul biglietto da visita che trovate un po' dappertutto, su Facebook dappertutto, che è quel cane marrone che si chiama Fiore. Quel cane è l'emblema, è il simbolo di quello che facciamo, nel senso che è un cane che è paralizzato, i proprietari sono andati dal veterinario, ovviamente hanno fatto tutte le cure, quello che c'era da fare, poi a un certo punto hanno detto guardi, servirebbe il carrellino. Loro hanno chiesto il prezzo del carrellino e il carrellino non era alla loro portata, cioè costava allora 600 euro. Queste persone hanno fatto una scelta coraggiosa perché hanno deciso comunque di tenere quel cane, a cui erano estremamente affezionati, però senza un carrellino è una scelta veramente coraggiosa. Aveva 2 anni e ha buttato 5 anni della sua vita in quelle condizioni. Fino a che una volontaria che ci conosceva ha visto quel cane, ci ha messo in contatto, siamo andati lì e abbiamo fatto il carrellino. La cosa stupefacente era che questo cane sembrava un cane sano, nel senso che non aveva un pelo fuori posto, erano riusciti a gestire per 5 anni quel cane senza che avesse non una piaga, non aveva nemmeno una sfumatura di pelo rovinato, quindi sono stati bravissimi. Gli ho detto guardi, adesso gli mettiamo il carrellino, però tenga conto, abbia un po' di pazienza perché ovviamente un cane che è rimasto 5 anni a terra ha ovviamente dei problemi. Il carrellino l'ha pagato 65 euro al posto di 600 di 5 anni prima, e ce ne siamo andati. Sabato dopo, quindi a distanza di 7 giorni, la signora mi ha chiamato fra le lacrime perché non riusciva nemmeno a parlare e ci ha detto che non solo il cane Fiore veniva messo alle 9 di mattina e tolto alle 10 di sera, ma che quando andavano a togliergli il carrellino cercava di morderli perché non voleva essere scaricato dal carrellino, quindi era in pieno recupero dei 5 anni persi della sua vita. Bellissimo, guarda. Addirittura avete fatto un carrello per un cane di strada. È una delle cose che ricordo con maggiore commozione, perché Clio adesso ci ha lasciati, però era un cane di quartiere. Sono di Gandaggi, ma visto che ci sono delle famiglie che si occupano di loro, vengono cippati a nome del quartiere. Questo cane era purtroppo finito sotto una macchina e quindi era destinato ovviamente ad essere abbattuto, e grazie al nostro intervento invece ha avuto anche lui il suo carrellino. Quindi è arrivato un carrellino dove non sarebbe mai potuto arrivare. Quel cane non avrebbe mai avuto accesso ad un carrellino in altri tempi. Non ha vissuto molto perché era comunque un cane già acciaccato, un cane con problemi. Io credo che non sia una questione di tempo, è una questione di qualità. Scientemente abbiamo fatto carrellini anche per 10 giorni, cioè sapevamo che l'aspettativa di vita era di 10 giorni in qualche caso, e d'accordo con i proprietari abbiamo comunque fatto il carrellino per dare gli ultimi 10 giorni di vita o l'ultimo mese di vita in maniera degna. E proprio oggi mi hanno scritto che il carrellino è arrivato ieri, però purtroppo oggi il cane se n'è andato. Nel caso di cani anziani, purtroppo anche una giornata o anche 5 giorni sono fondamentali, e su questo sicuramente io cerco di fare il possibile. Ovviamente siamo partiti dai cani, poi adesso siamo arrivati a dire che basta che abbiano un po' di pelo e 4 zampe e noi ci siamo, insomma, ecco. Cani e gatti soprattutto. Poi sono entrati i conigli, prima si faceva solo un carrellino da paraplegico, poi sono riuscito a fare anche carrellino riabilitazione anche per il coniglio. Siamo arrivati alla capra, abbiamo fatto una capretta tibetana, fino all'apoteosi della nutria. La nutria è meravigliosa, è una cosa commovente. Sì, quella nutria è un simbolo più che un animale su un carrellino per me. Io per quella nutria là ho fatto 1400 km, ho fatto 700 km per andarla a misurare, 700 km per portargli il carrellino. La nutria, che è uno dei mammiferi che qui da noi è più avversato, è più combattuto, è più ucciso e sterminato, che sia su un carrellino, grazie alla ragazza che l'ha recuperata, che ci ha contattati, ogni volta che la vedo dico fatto bene, nel senso che quello è proprio il simbolo che il rispetto deve essere di tutti, non solo dei cani e gatti. Quando passerà questa cosa avremo fatto un notevole e definitivo salto di qualità nella nostra civiltà. Il limite sono i 50 kg, purtroppo oltre i 50 kg c'è una pressione troppo grossa sulle arterie femorali e quindi il cane tende ad avere dei dolori sul carrello, ecco, cosa che invece sotto quel peso là non abbiamo. Ho ricevuto una telefonata di una ragazza che ci ha detto che doveva farci una donazione. Una ragazza di Trieste, l'anno prima il vicino di casa aveva dato fuoco all'appartamento, al suo appartamento, e nel bruciare l'appartamento del suo vicino il fumo è entrato anche nell'appartamento di questa ragazza e ha ucciso il cane per soffocamento. Quando ha avuto l'indennizzo ha chiesto alla sua veterinaria a chi poteva dare questi soldi, e la sua veterinaria gli ha consigliato di darli a noi. E quindi questa ragazza mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, io ho questi soldi dell'assicurazione, una parte di questi soldi li uso per una signora che conosco che non ha da dar da mangiare ai cani, tutto il resto lo do a voi. E quindi a quel punto là ho detto: guarda, uso questi soldi per fare non tanto pubblicità ai nostri carrellini ovviamente, ma pubblicità all'alternativa, io l'ho chiamata così. Sono partito il 17 di novembre e ho fatto 9 giorni in cui ho girato tutta l'Italia grazie a dei volontari che sono stati splendidi, che mi hanno dato una mano, e ho toccato varie città. È stato difficile fargli capire cosa volevo fare, nel senso che lo vedevano come una cosa commerciale e assolutamente non era questo. Man mano che i giorni passavano, che io avevo 2 radio che mi seguivano tutti i giorni, ho avuto una televisione che mi ha mandato in diretta 3-4 sere, quindi man mano che la cosa cresceva e man mano che mi avvicinavo, diciamo, alla fine del tour, questa cosa cresceva, e adesso abbiamo richieste un po' da tutta Italia. Quelle zone che non abbiamo fatto ovviamente sono tutti a chiederci: ma quando ci sarà un altro tour? Ma quando ci sarà un altro tour? Noi non abbiamo mai chiesto direttamente dei fondi, ce l'abbiamo sempre fatta con delle cassettine che sono state messe sul territorio, bar, esercizi commerciali, con quelle cassettine siamo sempre riusciti ad autofinanziarsi. Dopo c'era anche qualche piccola donazione o qualche grande donazione. I nostri carrellini sono comunque sempre al prezzo di costo, dove c'è appunto la possibilità o dove abbiamo i fondi riusciamo ad arrivare fino al 50-60% di finanziamento diretto, quindi il carrellino costa la metà di quello che costa. Alessandro Ortolan, restiamo animali? Assolutamente sì, restiamo animali. This song's called Alice's Restaurant. It's about Alice and the restaurant. But Alice's Restaurant is not the name of the restaurant. That's quattro passi in centro a Lucca. Passiamo per il fil lungo e cosa ti vediamo? Nandas, vegan, burgers and cakes, 100% vegetale. Siamo proprio all'inizio del fil lungo, al numero 247, e vediamo diverse scritte attraenti per noi. All our products are vegan and made from proteins which come from grains and legumes. Quindi si parla ai turisti che passeggiano per Lucca, però vediamo anche scritte in italiano. 100% vegetale, 0% grassi animali, 0% colesterolo, no additivi, eccetera, eccetera. Vedo Lorenzo molto interessato al menù. Sì, il menù è piuttosto interessante, un classico da fast food con i nomi che sono quelli tipici delle catene più conosciute, per dire il cheeseburger, c'è anche qua, con un veg burger di soia, formaggio vegan, pomodoro e lattuga. C'è il panino leggero, per fare un altro esempio, affettato vegetale, a scelta, parmigiano vegan, rucola e salsa verde. Tutti i panini sono fatti con farine integrali bio, quindi anche c'è la possibilità poi di scegliersi gli ingredienti al banco, quindi farsi il panino secondo i propri gusti. Merita forse di essere annotato, oltre alle insalate che sono proposte, agli stuzzichini, il motto che compare sul dépliant, che fa da carta, diciamo, dei piatti, ed è una frase di Gandhi: il nostro prossimo è tutto ciò che vive. Nel locale, che ha 4-5 tavolini e si affaccia sulla fine del fil lungo verso Porta Santa Maria, c'è anche questa frase molto conosciuta di George Bernard Shaw: gli animali sono i miei amici e io non mangio mai i miei amici. Chi è che ha fondato questo locale? Ciao, sono Marco, siamo tre soci, due napoletani e un lucchese. Abbiamo dato vita a questo locale pensando che a Lucca, insomma, mancava questa alternativa, quindi siamo felici di proporre qualcosa di innovativo in una città che comunque sta crescendo sempre di più a livello turistico. Nel banco vediamo, oltre a una serie di ingredienti con i quali presumibilmente più tardi verranno fatti panini, verranno fatti piatti salati, vediamo però anche delle fantastiche panne, delle torte, vediamo dei croissant, vediamo delle sfogliate. Quindi qui il menù diciamo va avanti dalla mattina fino alla sera. Che orario fate? Noi apriamo alle 8, facciamo colazione e poi restiamo aperti orario continuo fino alle 22. Allora, io ordino un cappuccino vegano e una sfogliata. Tu? Idem, senza patatine. Manuele, cosa pensi di questa formula? Ovvero nel senso del fast food vegan, che è una grandissima bella soluzione, una bella risposta a quello che è il McDonald's per noi vegani. E qui a Lucca è stato veramente apprezzato tanto, non solo per una questione vegan, ma per una questione anche di intolleranza o quello è cibarsi in maniera finalmente diversa. Tu che cosa hai portato in questo posto della tua, diciamo, arte culinaria? Beh, tutto, che dovevo portare? Il mio lavoro è quello, l'idea sono stati loro i soci a creare l'ambiente e hanno preso una persona apposta per tirar fuori quello che è tutta la parte pasticceria e la parte del salato. E speriamo di andare sempre avanti e sempre meglio, dai. Per ora com'è la risposta? Molto positiva, molto. Dagli stranieri o anche dai lucchesi? Ma un po' tutte e due, ci sono sia tanti lucchesi che tanti stranieri qui di passaggio che apprezzano il fatto del vegan. Ma la cosa più bella è proprio la cittadinanza di Lucca, la risposta bella è quella, è Lucca. Emanuele Di Biase è uno chef che avevamo già conosciuto perché aveva collaborato al lancio del ristorante di Firenze Dolce Vegan, quando aprì come primo ristorante 100% vegano a Firenze. Emanuele lì si esibiva nella sua specialità che è la pasticceria vegana. Ha tenuto anche innumerevoli corsi di cucina e pasticceria vegana, corsi che hanno avuto enorme successo. Ricordiamo che Emanuele sarà ospite, assieme ad altri due ottimi chef, nell'evento con cena che organizziamo mercoledì 31 luglio 2013 a Settignano, terzo appuntamento del ciclo con Apericena sulla questione animale. Abbiamo fatto colazione, due cappuccini e due sfogliate, una alla crema e una al mirtillo. E ci è sembrato tutto squisito, le sfogliate sono state leggermente riscaldate, quindi erano perfette, friabili, gustosissime. Non noto alcun tipo di distanza rispetto a quello a cui ero abituata un tempo quando ero onnivora. Tu? Assolutamente buonissimi, senza retrogusti strani. E poi abbiamo assaggiato la panna che ci è stata rappresentata come una specialità e effettivamente super. È da concorso, sì, veramente buona questa panna. E chissà che mercoledì prossimo Emanuele non ci sveli qualche segreto. Obi, did you think I was gonna hang myself for littering? Obi said he was making sure, and friends Obi was, 'cause he took out the toilet seat so I couldn't hit myself over the head and drown. And he took out the toilet paper so I couldn't bend the bars, roll the toilet paper out. Siamo al terzo appuntamento sulla questione animale organizzato dalla redazione di Restiamo Animali. Questa volta si tratta del 31 luglio 2013. Ci sarà una cena gourmet sotto le stelle. Tre grandi chef cruelty free saranno i nostri ospiti della serata. Emanuele Di Biase, specializzato in pasticceria vegan. A Firenze ha lavorato al Dolce Vegan e adesso è al Nandas di Lucca. Gabriele Palloni, del progetto Cibarius, autore di Speriamo che sia vegan, che ha lavorato a Firenze alla Gabbia Matta in via De Pucci. Simone Salvini dell'Organic Academy, autore di Cucina Vegana e I Dolci della Salute, edizioni Mondadori, famoso per avere lavorato allo stellato ristorante Gioia vegetariano di Milano, oggi all'Ops di Roma. Si parlerà di cucina, cultura, ricette, ma anche di salute, di etica, di spiritualità, di scelte di vita e storie personali. Tutto quello che insomma può ruotare attorno a un mestiere come quello dello chef, se declinato in senso etico e cruelty free. Quindi segnatevi la data, 31 luglio 2013, è un mercoledì, il luogo è la Casa del Popolo di Settignano a Firenze, tutti i proventi saranno devoluti alla campagna Stop Vivisection. Si cena alle ore 20, per ridurre gli sprechi vi preghiamo di prenotare a restiamoanimali@gmail.com oppure al 347-671-7132, troverete tutto nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.